Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo appuntamento del mese di giugno con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ritroviamo l'avvocato Gioia Barbato dell'Ufficio Legale, ben trovata. Grazie Mirko, buongiorno a tutti. Dunque, oggi non parliamo di un tema specifico, di una rogna, di un problema, di tanti casi insomma a cui ci dedichiamo ogni settimana con voi. Parliamo dei vostri sportelli che, ricordiamo, sul sito associazionedifesaconsumatori.it sono 5 principalmente, ma ci sono delle novità in arrivo. Esatto. Stiamo un po' adeguando ai tempi che cambiano, infatti abbiamo deciso, cioè, proprio in vista di tutte le segnalazioni che arrivano in sede, abbiamo deciso di promuovere degli sportelli cosiddetti per i procedimenti speciali, ovvero relativi al diritto di famiglia, al gratuito patrocinio e all'amministratore di sostegno, che sono i temi che vanno un po' per la maggiore ultimamente. Infatti, soprattutto per quanto riguarda lo sportello relativo al diritto di famiglia, abbiamo notato un incremento di segnalazioni di circa il 100% negli ultimi 4 mesi. Ecco, e per diritto di famiglia cosa intendiamo, giusto per non fare confusione? Ah beh, per diritto di famiglia, innanzitutto è un nome che comprende molti concetti, molti tipi di procedimento, però principalmente tutto ciò che riguarda la separazione, i divorzi, l'affidamento dei figli, e, la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, insomma tutto ciò che è strettamente legato alla famiglia. E quindi questo è uno delle pagine nuove. Poi dicevi c'è il settore amministratore di sostegno. Esatto. che è un'altra figura che c'entra sempre con la famiglia. Diciamo è più una figura di stampo sociale e riguarda principalmente è un istituto che copre tutti quei casi in cui ci sia una persona che ha delle difficoltà o motorie, comunque quando c'è una persona che sostanzialmente non è autosufficiente e ha bisogno di cure. Quindi l'amministratore di sostegno è una figura che subentra in tutti questi casi. Il classico esempio è l'anziano in casa di riposo che non è più autosufficiente, allora ha bisogno di delegare o il figlio o comunque una persona di fiducia per espletare tutte quelle quei normali compiti della vita quotidiana che riguardano sia ciò che copre la sfera patrimoniale, quindi il semplice ritiro della pensione o la gestione dei propri redditi e tutte quelle cose non patrimoniali, come ad esempio il pagamento di una bolletta o comunque tutti quegli affari che fuoriescono dalla sfera economica. Poi il primo che hai citato è il gratuito patrocinio, che è un istituto importante al quale ha diritto chi? Ecco, al quale hanno diritto tutti i cittadini che non superano una certa soglia reddituale, che adesso come adesso, in base all'ultima modifica, si aggira intorno ai 10.000 euro, dovrebbe essere intorno ai 10.200. Poi bisogna anche valutare se la persona, cioè qual è il nucleo familiare della persona che lo richiede, perché nel caso in cui in quel nucleo ci siano anche più persone a carico, la soglia reddituale viene leggermente modificata. Comunque un istituto molto importante al quale si aderisce solamente facendo riferimento degli avvocati che sono iscritti in particolari liste depositate all'interno del tribunale, e proprio per questo motivo, proprio per il fatto che molti nostri soci ci hanno richiesto questo tipo di assistenza, noi di Adico ci siamo iscritti in queste particolari liste proprio per fronteggiare appunto i bisogni dei soci Adico. Questo per qualsiasi tipo di causa? Esatto. Sì, infatti è importante ricordare che fino a qualche anno fa il gratuito patrocinio veniva applicato solamente per il diritto penale, perché sappiamo tutti che in diritto penale la difesa tecnica è obbligatoria, mentre adesso come adesso da qualche anno è stata emanata una legge che ha esteso questo tipo di tutela anche per il diritto civile. Quindi noi di Adico, che principalmente trattiamo tutte le materie di stampo civilistico, è stata una disposizione di legge rivoluzionaria, ecco. Una domanda che poi spazia sugli altri settori, appunto, quello del condominio, quello dei danni, quello delle vacanze, dell'automobile, dei debiti e dei crediti, le bollette, insomma, spesso ne abbiamo parlato. C'è un periodo dell'anno che è particolarmente critico per le segnalazioni, o ci sono settori che così sono più concentrati in un periodo piuttosto che in un altro? Guarda, ti dico la verità, io non vedo un picco di segnalazioni relative ad una determinata materia in un determinato periodo storico, però ti posso dire che un tempo il periodo estivo era il periodo, diciamo, tra virgolette un po' più morto, perché le persone andavano in vacanza. Invece negli ultimi anni si è invece riscontrato l'effetto opposto, ovvero per il fatto che molti italiani ormai non possono più permettersi le vacanze e però hanno comunque un periodo di ferie dal lavoro, è proprio il periodo in cui si concentrano maggiormente le segnalazioni, forse proprio perché sono a casa e quindi magari non sanno cosa fare non andando in vacanza, allora si concentrano di più nella risoluzione delle problematiche che magari si presentano in tutto il periodo dell'anno, però hanno, cioè, il tempo per risolverlo è talmente minimo che uno le concentra quando c'è il periodo di ferie. Eh sì, perché poi tutte queste pratiche, insomma, voi certamente date una mano, ma sono cose che portano via del tempo, perché bisogna andare per uffici, chiedere pareri, avere, insomma, anche molto tempo a disposizione. Non mi ricordo quanto, ma so che qualcuno aveva calcolato quanto tempo si può perdere in fila agli uffici. Sì, è vero. Sembra veramente tanto, no, ma anche ti dico, anche le pratiche dove chi viene da noi è magari la parte creditrice, pensiamo ad esempio ad uno sfratto, ne abbiamo anche molti casi in cui i nostri soci si rivolgono ad Adico perché sono proprietari di un immobile in cui all'interno c'è un inquilino moroso, allora magari durante l'anno magari cercano anche un po' di ignorare o comunque tralasciano questo tipo di problema, poi magari arriva l'estate, i soldi per andare in ferie non ci sono perché magari l'appartamento che hanno messo a reddito non dà i frutti sperati, allora si rivolgono ad Adico e cercano appunto di risolvere questa soluzione, anche perché pensiamo anche ad esempio al caso dello sfratto, è un problema, cioè, non solamente un mancato guadagno ma anche un pagamento doppio, pensiamo addirittura all'IMU per esempio, cioè pensiamo al fatto di dover pagare un doppio IMU anche per una seconda casa, per un appartamento che abbiamo messo a reddito ma per cui l'inquilino non mi paga i canoni. Eh sì, questo è un problema di cui magari ci occuperemo in altre occasioni. Intanto il nostro tempo per oggi è finito. Associazionedifesaconsumatori.it per ulteriori dettagli. Grazie all'avvocato Gioia Barbato e buona giornata. Grazie a te, ciao Mirko. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.